Focus Economia. Un saluto da Vincenzo Miglietta, puntata di Focus Economia che apriamo anche oggi con le notizie che arrivano dalla Cina. Con la terza svalutazione in 3 giorni dello yuan, la banca centrale cinese ha fissato infatti la parità della divisa a 6,4010, l'1,1% sotto il fixing del giorno precedente. Al contrario di ieri però, quando il deprezzamento della moneta di Pechino aveva dato il via ad una frenata generalizzata dei mercati, oggi il clima è decisamente diverso, con le principali piazze asiatiche ed europee in larga parte in terreno positivo. Secondo alcune interpretazioni si tratterebbe però solo di un rimbalzo temporaneo, visti gli effetti depressivi della svalutazione dello yuan destinati a durare, che coinvolgerebbero le altre economie asiatiche e quelle dei paesi esportatori di materie prime. Li ricordiamo: Vietnam, Corea, India e quindi Brasile ed Australia tra tutte. La domanda che ci si pone da martedì, primo giorno dell'intervento al ribasso della banca centrale cinese, è a questo punto: cosa faranno da qui alle prossime settimane la Federal Reserve americana e la BCE in tema di tassi di interesse? Se insomma manterranno alta la liquidità sui mercati o se interverranno con aumenti dei tassi. Cosa difficile questa, tuttavia, visto quanto fatto già la scorsa settimana, e ne abbiamo parlato da parte della banca centrale inglese che, pronta ad alzare i tassi, ha poi deciso di rinviare il tutto. Ne parleremo comunque nel nostro primo spazio di approfondimento ed aspettiamo le vostre domande e i vostri commenti al 349-238-6666. Altro fronte sempre caldo ormai da diversi mesi, la Grecia. Questa sera nel Parlamento di Atene il voto delle misure frutto dell'intesa tra il governo di Tsipras e i creditori, che una volta approvato anche in sede europea permetterà di sbloccare la terza tranche di aiuti da 85 miliardi di euro. Domani è atteso l'Eurogruppo, quindi la prossima settimana il voto anche in alcuni parlamenti dell'Eurozona, a partire dalla Germania. Germania che già ieri aveva fatto sapere però di voler chiedere più tempo per analizzare l'intesa e le nuove riforme della Grecia, dando il proprio via libera nel frattempo ad un prestito ponte. E vi sarebbe stata su questo anche una telefonata di fuoco proprio tra la Merkel e Tsipras. Insomma, la questione greca è tutta da vedere e da seguire. Come da seguire con attenzione sono le mosse in Italia del Tesoro, pronto ad accelerare sulla strada delle privatizzazioni. È confermata per esempio la roadmap dell'arrivo a Piazza Affari del 40% di Poste Italiane. L'appuntamento è per la fine di ottobre, ma già gli advisor sarebbero a lavoro, così come sarebbero ben avviati i contatti con gli investitori internazionali e i fondi sovrani. Quindi parleremo di infrastrutture energetiche, questa nell'ultima parte della trasmissione. Si preparano a partire anche in Puglia i cantieri di TAP, il gasdotto che, con un percorso di 870 km che attraversa Grecia, Albania e Mare Adriatico, porterà dal 2020 in Salento, sulla costa di Melendugno, il gas dell'Azerbaigian, 10 miliardi di metri cubi l'anno, eventualmente raddoppiabili. Un'opera importante per il nostro paese, anche per l'indotto che ne consegue, ma che ha anche tanti detrattori sul fronte degli ambientalisti. Uno sguardo rapido ai mercati prima di partire con le notizie in breve. FTSE MIB in questo momento più 1,56, Francoforte più 1%, Londra sostanzialmente sulla pari, Parigi più 1,37, Wall Street, Dow Jones in questo momento meno 0,17, Standard & Poor's meno 0,10, euro su dollaro 1,1139. Questo è il nostro percorso di oggi e vi ricordo, scriveteci al 349-238-6666 oppure sulla pagina di Focus Economia del sito di radio24.it. Passiamo ora alle notizie in breve. Notizie in breve che apriamo al solito con le materie prime. L'oro scende dello 0,7% a 1.115 dollaro l'oncia. L'oro in calo dopo che il World Gold Council ha stimato un calo della domanda del 12% nel secondo trimestre, cioè specialmente da Cina e India, mentre vi è stato un recupero di Europa e Stati Uniti. Gli esperti lasciano aperta comunque la possibilità che nel secondo semestre, stagione di matrimoni in India, ci sia una ripresa della richiesta anche grazie al ribasso dei prezzi. Il petrolio sempre interessante in queste settimane, anche oggi giù del 2% a 42 dollari il barile. Gli Stati Uniti, le vendite al dettaglio in luglio sono salite dello 0,6%, al netto della componente auto l'aumento è stato dello 0,4%, il dato è in linea con le attese degli analisti. E le richieste di sussidi alla disoccupazione sempre negli Stati Uniti sono salite la scorsa settimana di 5.000 unità a quota 274.000, il dato è superiore alle attese degli analisti che scommettevano su quota 270.000. Abbiamo detto della Cina, ne parleremo ampiamente tra breve nel nostro primo tema. Allora andiamo al Giappone. Brusca frenata in Giappone per gli ordini di macchinari del settore privato che a giugno rispetto al mese precedente segnano un tonfo del 7,9% a 835,9 miliardi di yen, circa 6 miliardi di euro. La statistica rilevata nelle componenti core al netto di settori volatili come utility e cantieri navali è un indicatore importante su spese e investimenti aziendali. E poi la Grecia, i deputati greci hanno cominciato a discutere nelle commissioni parlamentari il nuovo accordo con i creditori internazionali che questa sera sarà poi votato dall'Assemblea parlamentare. Domani a Bruxelles, vertice Eurogruppo sull'accordo e sul via libera al terzo piano di aiuti da 85 miliardi di euro, su cui però la Germania frena. Anche di questo parleremo tra breve, ma per quanto riguarda l'economia di Atene arriva una notizia che sorprende in positivo. Nel secondo trimestre il prodotto interno lordo greco è cresciuto dello 0,8% rispetto ai tre mesi precedenti, nonostante il durissimo negoziato con i creditori. Meno 0,5% le attese degli economisti. Su base annua l'incremento è dell'1,5%. L'Istituto Statistico ha anche rivisto in meglio le stime per i primi tre mesi dell'anno, in stagnazione rispetto allo al meno 0,2% stimato in precedenza. E cercheremo di capire come sia possibile, ecco, un più 0,8% nel momento di maggiore difficoltà per l'economia della Grecia. Chissà che il solo sentire di una stretta fiscale, di maggiori controlli in quei mesi non abbia comunque fatto emergere una maggiore economia che prima non veniva rilevata dalle statistiche. Ne parleremo tra breve. Ora la Turchia andrà molto probabilmente ad elezioni anticipate, lo ha annunciato il premier incaricato turco Ahmet Davutoglu, dopo il fallimento del tentativo di formare un governo di coalizione con il maggior partito di opposizione, i socialdemocratici del CHP. E quindi l'Italia cala a giugno il debito pubblico italiano, lo rileva Banca Italia, sceso di 14,6 miliardi a 2.203,6 miliardi dopo che a maggio aveva toccato un nuovo record, quanto informa Palazzo Koch, secondo cui la diminuzione è stata sostanzialmente uguale all'avanzo di cassa del mese, 14,5 miliardi, le disponibilità liquide del tesoro sono rimaste invariate, 100,9 miliardi. E sempre Banca Italia, le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato a giugno sono state pari a 41 miliardi, in diminuzione rispetto allo stesso mese del 2014, dove si erano fermate a 42,7 miliardi. Ora una notizia che riguarda i comuni, una notizia tra economia e fisco. L'emergenza finanziaria dei comuni si sta aggravando ogni giorno di più e molte amministrazioni, per mancanza di liquidità, non sono nelle condizioni di pagare gli stipendi ai dipendenti e di assicurare i servizi essenziali ai cittadini. Parliamo in questo caso della Sicilia. I comuni rischiano il collasso a causa del mancato trasferimento delle risorse regionali e non saranno quasi certamente, malgrado la proroga al 30 settembre, in grado di fare i bilanci di previsione a causa della totale mancanza di dati certi in merito ai criteri di riparto. A lanciare l'allarme il presidente di ANCI Sicilia, Leo Luca Orlando. E quindi alla ripresa a settembre il governo avrà anche questo problema: conciliare gli interventi fiscali, anche quelli sulle economie locali, con la legge di stabilità. Sin qui le notizie in breve. Ora il primo tema di Focus Economia. Del nostro tema: la Cina svaluta ancora ma le borse rimbalzano. Terza svalutazione dello yuan in 3 giorni. La banca centrale cinese ha abbassato di un ulteriore 1% il tasso di riferimento della moneta nazionale rispetto al dollaro. Con la nuova svalutazione la Banca di Cina ha portato il cambio a 6,40 yuan per un dollaro contro i 6,33 di ieri. Quella avviata martedì è la più imponente svalutazione dello yuan degli ultimi 20 anni. Nonostante la nuova mossa della banca centrale cinese, oggi le borse rimbalzano sia in Asia che in Europa. Lo abbiamo visto nella sola giornata di ieri. Le piazze finanziarie europee hanno però bruciato 227 miliardi. Parliamo di tutto questo con il collega del Sole 24 Ore, Moria Longo. Buon pomeriggio, Moria. Buon pomeriggio a voi, a tutti. La prima domanda, Moria: la banca centrale cinese assicura comunque che si asterrà da interventi regolari sul mercato dei cambi e chiarisce che l'obiettivo delle svalutazioni è lasciare che sia il mercato a decidere il tasso di cambio della valuta cinese. È una spiegazione che ti soddisfa? La banca centrale cinese 3 giorni fa, quando ha svalutato la prima volta, aveva detto che sarebbe stata una misura una tantum e l'ha fatto il giorno dopo. Il giorno dopo aveva detto che avrebbe smesso lì e l'ha fatto per il terzo giorno, per cui non sono particolarmente soddisfatto da questo punto di vista. La Cina sta, questo è vero, sta cercando piano piano, gradualmente, di riportare il tasso di cambio dello yuan a un valore più consono con i livelli verosimili, certo, del mercato, perché lo yuan è molto forte. Nonostante questa svalutazione, resta una delle monete dei paesi emergenti più forti. E anche perché vuole che lo yuan prima o poi entri a far parte del club delle valute utilizzate dal Fondo Monetario Internazionale, e quindi ha bisogno piano piano di portare lo yuan da un mercato, diciamo, controllato a, certo, a fluttuazioni di mercato. Quindi lo sta perché cercando al momento di fare... Scusami, Moria, lo yuan non ha una fluttuazione libera, comunque dei margini, sia positivo che in negativo. Esattamente, ha una banda di oscillazione prestabilita e quindi non è libero di fluttuare liberamente, appunto, sul mercato. Ecco, la banca centrale sta gradualmente cercando di portare una libera fluttuazione dello yuan, però è una cosa che avverrà probabilmente nel tempo, ammesso che avvenga, perché per ora continua a stabilire lei qual è il tasso di cambio, o meglio la banda di oscillazione. Moria, ti chiedo perché vi sono queste interpretazioni diverse. Per esempio, mi sembra che la BCE sia preoccupata, il Fondo Monetario di meno, e tu oggi per esempio parli nel tuo pezzo sul Sole 24 Ore di storia infinita del doping monetario. Spiegaci. Allora, innanzitutto la Banca Centrale Europea è preoccupata, sono uscite oggi le minute del suo ultimo dell'ultimo consiglio della Banca Centrale Europea, è preoccupata per le ripercussioni internazionali e in Europa della crisi cinese, ma non parla di questa crisi valutaria di questi giorni, parla in realtà del crollo delle borse che c'è stato nei mesi certo, passati, per cui è preoccupata per quello. In realtà le borse in un primo momento, nei giorni scorsi, sono crollate perché questo ribasso, questa svalutazione improvvisa sorpresa dello yuan ha messo una serie di problematiche a livello internazionale. Per esempio ha fatto crollare il prezzo delle materie prime, e questo crea un problema in molti paesi emergenti. La svalutazione dello yuan crea un problema per tutte le aziende, anche europee che esportano in Cina, e difatti sono crollati i titoli delle auto, sì, sì, del lusso e così via. Lo abbiamo visto. Ecco, certo. Però in realtà dopo due giorni di crolli delle borse, gli economisti e gli analisti hanno iniziato a capire che per l'Europa e in parte anche per gli Stati Uniti la svalutazione dello yuan non è una notizia così negativa, anzi al netto tra i pro e i contro potrebbe addirittura essere positiva, perché la svalutazione dello yuan ha provocato un forte ribasso dei prezzi delle materie prime, sì, petrolio incluso, e questo è positivo per per esempio un continente come l'Europa, che è un consumatore di petrolio e di materie prime e non è un produttore. La svalutazione dello yuan importa, proprio perché sta abbassato il prezzo delle materie prime, importa in Europa, negli Stati Uniti, deflazione, cioè abbassa i prezzi. Questo fa sì che le banche centrali di Europa e Stati Uniti, ma in realtà anche del resto del mondo, perché la deflazione è globale, possono essere più espansive, quindi la Federal Reserve forse non alzerà più i tassi di interesse a settembre come tanti si aspettavano, lo farà più avanti. Esporta deflazione, scusami Moria, spieghiamo ai nostri ascoltatori perché con lo yuan è più debole, anche i prodotti cinesi costano di meno, quindi li pagheremo ulteriormente di meno in Europa questi prodotti. Sì, ma il motivo principale è che la svalutazione dello yuan sta facendo scendere molto i prezzi delle materie prime, che già scendevano indipendentemente dalla svalutazione dello yuan. Questo perché la Cina è il maggior consumatore di materie prime al mondo. Certo. Pensate, per esempio, al rame: il 40% del rame mondiale finisce in Cina, viene comprato dalla Cina per costruire case, per fare appunto per la loro attività. Quindi se la Cina rallenta consuma meno materie prime e quindi il prezzo delle materie prime scende. Scendendo il prezzo delle materie prime ovviamente scende l'inflazione a livello mondiale, perché il petrolio viene consumato in tutto il mondo, il rame in tutto il mondo e le varie materie prime in tutto il mondo. Quindi questo fa scendere l'inflazione. Siccome già l'inflazione era molto bassa, anzi in molti paesi balliamo tra la deflazione e la disinflazione, quindi questo ribasso delle materie prime abbassa ulteriormente l'inflazione. Il che è un problema in teoria, perché ovviamente le banche centrali hanno tutte l'obiettivo di riportare l'inflazione al 2%, ma dato che questo ribasso dell'inflazione è dovuto a un motivo esogeno, quindi perché scendono le materie prime, e non a un motivo endogeno, perché i consumi in Europa calano, in realtà questa deflazione, questa bassa inflazione diventa addirittura positiva per l'economia, perché aumenta il potere d'acquisto dei consumatori. Cioè se io certo. faccio il pieno di benzina spendo meno, quindi avrò più soldi in tasca, e i soldi risparmiati dal pieno di benzina posso usarli per fare qualcos'altro. Però Moria, un'ultimissima domanda: se l'obiettivo di Pechino era quello anche di dare forza alla propria economia, potrà andare meglio sull'export ma meno sul mercato interno, che sappiamo invece Pechino voleva spingere? Notizia di oggi: l'utile trimestrale negativo, addirittura del 50% di Lenovo, con 3.200 licenziamenti. Sì, esattamente, difatti questo è il problema, uno dei problemi di questa svalutazione per la stessa Cina. Ripeto, però loro stanno facendo questa svalutazione non solo per rilanciare le esportazioni. Non dimentichiamoci che domenica scorsa è uscito il dato sull'export cinese, che è crollato dell'8%, sì, oltre l'8%, sì. E queste svalutazioni sono avvenute nei giorni successivi. Quindi sicuramente la Cina sta svalutando per sostenere un po' le proprie esportazioni, perché la Cina resta comunque il più grande esportatore al mondo. Detto questo, però, sicuramente la motivazione per cui la Cina sta svalutando lo yuan non è solo per sostenere l'esportazione, ma anche, come dicevo prima, per far sì che, per cercare di portare lo yuan sempre più verso una libera fluttuazione di mercato, per essere accettato nel club delle valute importanti, diciamo tra virgolette, del fondo monetario. Certo, certo. Perfetto, grazie a Moria Longo, collega del Sole 24 Ore. Restano tanti dubbi, vedremo nei prossimi giorni come evolverà la situazione. Tra l'altro ci scrivono al 349-238-6666 che la deflazione che si origina dalla Cina comunque potrebbe allargarsi alle altre economie asiatiche, anch'esse in competizione con Pechino, e quindi tutta quella zona del paese vedrebbe una concorrenza praticamente tra di loro per offrire i propri prodotti sempre ad un prezzo inferiore. Quindi argomento Cina importante, lo seguiremo anche nei prossimi giorni. 17:26, passiamo ad un altro tema molto importante, la Grecia. 349-238-6666 il numero per i vostri SMS. Parliamo della Grecia. I deputati hanno cominciato a discutere nelle commissioni parlamentari il nuovo accordo con i creditori internazionali, che questa sera sarà poi votato dall'Assemblea parlamentare. Domani a Bruxelles vertice Eurogruppo sull'accordo e sul via libera al terzo piano di aiuti da 85 miliardi di euro, su cui però la Germania frena. Berlino, Francoforte puntano ad un prestito ponte per avere più tempo per poter analizzare quest'accordo. È con noi Vittorio Darold, collega del Sole 24 Ore. Anche la posizione della Germania, Vittorio, è capibile oppure è fuori tempo massimo la posizione della Merkel, dopo che comunque si è raggiunto quest'intesa tra Tsipras e i creditori? Buon pomeriggio innanzitutto, Vittorio Darold. Buon pomeriggio a voi. Sì, effettivamente la posizione tedesca è una posizione abbastanza incomprensibile, perché il piano è stato accettato a livello di Eurogruppo, quindi se ci fossero state delle probabilità di non capirlo, oppure delle misure che non erano condivisibili, all'interno dell'Eurogruppo ci sarebbe dovuto essere questo dibattito preliminare, cioè nella fase tecnica non ci sono state queste riserve. Effettivamente poi il piano è abbastanza complesso, perché ricordiamo ci sono ben 35 misure prioritarie che il governo di Atene si è impegnato a approvare, e c'è anche la possibilità di avere il cosiddetto tagliando a ottobre, cioè un momento in cui ci sarà la verifica sul campo se il governo poi ha implementato e varato le misure che, lo ricordiamo, sono misure certo pesanti di austerità, sono sostanzialmente nuove tasse, mantenimento di tasse che il governo aveva promesso di cancellare, ad esempio quella sulla casa, e la riduzione di spese come la riduzione appunto delle baby pensioni, e quindi una ristrutturazione pesante ancora sulla previdenza. Quindi ci sono misure molto impegnative, misure anche a livello di liberalizzazioni delle professioni, liberalizzazioni anche pesanti, complesse, in una situazione dove ci sono naturalmente delle resistenze corporative. E poi c'è anche un impegno forte per le privatizzazioni del porto del Pireo, del porto certo di Salonicco, e anche appunto dell'energia elettrica. Quindi effettivamente il governo greco è impegnato in una fase molto complessa. Non a caso il voto che si prevede nella notte ad Atene sarà un voto molto complicato, perché la sinistra di Siriza probabilmente farà ancora le barricate e probabilmente non voterà secondo le indicazioni del governo, anche se il piano passerà grazie all'aiuto dei voto sì dell'opposizione di Neodemocrazia e il PASOK, il Partito Socialista, che voteranno a favore oltre a Topotami. Quindi non ci sono in questo senso patemi d'animo, si passerà il piano, ma c'è naturalmente la possibilità che ancora una volta il partito del Premier spacchi, sì, certo, e i ribelli non votino un piano che effettivamente è un piano di austerità. Quindi abbastanza incomprensibile questa opposizione tedesca a un terzo piano di salvataggi, che resta comunque un piano con profonde riforme strutturali. Profonde riforme, Vittorio, le ricordavi, dalle pensioni al fisco, vi sarà anche un maggiore controllo, anche proprio una lotta all'evasione fiscale, poi la famosa tassazione delle isole, gli armatori, che anche se con tappe molto a rilento dovrebbero comunque andare a pagare un maggior gettito al fisco. E quindi ecco, il governo di Atene Vittorio sembrerebbe aver fatto la sua parte. Allora, come si spiega, per esempio, tu che conosci molto bene l'economia di Atene, la notizia di oggi con questo risultato sorprendente di un più 0,8% del PIL nel secondo trimestre? Un più 0,8% che si sarebbe ottenuto proprio nei mesi cruciali della trattativa. Sì, effettivamente si fa fatica a credere, però la situazione è che quando tu vai molto male fai anche molto velocemente a riprenderti, e non bisogna dimenticare che il turismo è la chiave di volta di questo piccolo paese, per cui un rimbalzo rispetto all'anno scorso dovuto appunto a un miglioramento, perché quest'anno il numero di turisti in Grecia si prevede un ulteriore record, quindi c'è stato un afflusso causa anche situazioni geopolitiche di paesi nordafricani, certo, complicate, e quindi molti il flusso turistico, diciamo, tradizionale si è dirottato proprio verso le isole greche e verso la Grecia, quindi questo è stato un elemento positivo. E poi effettivamente c'è anche il fatto che in qualche modo la Grecia ha una capacità di ripresa di estrema flessibilità, cioè hai una economia che è estremamente pronta a cogliere gli elementi positivi, per cui anche un ribasso del petrolio ha fatto naturalmente molto bene, perché lo ricordiamo è una bolletta energetica quasi esclusivamente basata sull'importazione di appunto indubbiamente di petrolio, gli aspetti positivi che sta avendo l'Italia a generare delle riduzioni nei consumi, perché certo, la buona parte dell'energia elettrica prodotta è appunto di tipo appunto termoelettrica, e questo ha favorito ancora una volta i consumi e ha favorito anche appunto una riduzione della bolletta elettrica. Quindi in qualche modo un'economia piccola che, quando ha piccoli elementi come un aumento del turismo o una riduzione del petrolio, immediatamente ne risente in senso positivo. Questo fa ben sperare, naturalmente, ecco, nel fa caso ben... in cui si vada avanti in questo piano, terzo piano, lo ricordo, di 85 sì, miliardi, che dovrebbe dare immediatamente anche una tranche che consenta di pagare il bond alla BCE, e quindi a quel punto Mario Draghi potrebbe addirittura dare la possibilità di inserire Atene nei paesi che hanno diritto appunto all'acquisto di bond, il famoso quantitative easing, questa politica monetaria a cui per il momento tra i 19 paesi dell'Eurozona l'unico escluso era proprio la Grecia, che è quella Grecia che ne avrebbe più bisogno. Certo, quindi Vittorio, ricordiamo le prossime tappe. Dicevi, oggi il voto del Parlamento di Atene, domani l'Eurogruppo, quindi poi da una parte dovrebbero essere sbloccati gli 85 miliardi della terza tranche, dall'altra parte la Grecia dovrebbe ridare più di 3 miliardi alla BCE. Questo tutto entro il 20 di agosto? Sì, esattamente, mancano anche delle approvazioni, ci sono quattro paesi che devono approvare, fra cui la Germania, la Spagna, l'Olanda e la Finlandia, perché loro hanno appunto la possibilità di approvare diciamo i nuovi esborsi che l'Eurogruppo prevede. Fatto questo, è probabile che ci sia una tranche di una decina di miliardi che potrebbe essere dato subito per permettere di pagare i bond della BCE, per sì, magari ricapitalizzare parte delle banche, che naturalmente con il controllo dei capitali oggi non si può prelevare più di 60 euro giornalieri, anche se poi lo puoi fare appunto settimanalmente, quindi cumulare i giorni che tu non usi questo limite e utilizzarlo settimanalmente, però è un problema che sta aggravando la situazione, perché i controlli sui capitali impediscono alle piccole imprese greche che importano materie prime o che devono importare sì, dall'estero appunto parti della loro produzione, sono in grave difficoltà perché non riescono a pagare questi materiali. Ecco perché è importante la velocità di questa operazione, anche attraverso una prima tranche del piano, ma non con un prestito ponte, ma con un piano organico di 3 anni che venga poi verificato sul campo e quindi dia la possibilità di arrivare con la prima tranche. Si potrebbe a quel punto eliminare i controlli sui capitali, certo, tornare quindi a dare credito alle piccole aziende e far ripartire un'economia che a quanto pare è già pronta per un rimbalzo. Quindi ecco, questa Vittorio, è un po' la scommessa che certo, stiamo giocando per avere un'Unione Europea sempre più solidale, sempre meno arcigna e austera. Certo, quindi ecco, l'economia, l'abbiamo detto, sembra ripartire. Un'ultimissima domanda, ce la pongono al 349-238-6666, ma la vita di tutti i giorni in Grecia è ripartita? Dicevi dei bancomat che hanno dei limiti, i farmaci, qual è la situazione velocissimamente, Vittorio? No, guarda, dunque, per i greci è stato sempre naturalmente limitato all'uso dei bancomat. Chi non aveva il bancomat ed erano dei pensionati, sono stati immediatamente forniti di banco, quindi per assurdo c'è stato un ammodernamento del sistema finanziario che forzoso ha esteso l'uso delle carte di credito di banco a persone che prima non lo usavano. Un altro elemento positivo è che hai una sempre maggiore liberalizzazione anche in quei settori come i farmaci, che avevano invece strutture diciamo di distribuzione ancora abbastanza arcaiche. Bene. Quindi anche qui un elemento positivo. Grazie, grazie a Vittorio Darold, collega del Sole 24 Ore. Dopo meteo e pubblicità, la borsa. Focus Economia. Sette 7.39, siamo alla borsa, ci concentriamo sulle contrattazioni di Piazza Affari, lo facciamo con il collega Ceo Condina, Radio Cor Sole 24 Ore, buon pomeriggio Ceo. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Oggi allora lieve rimbalzo dei mercati, nonostante la terza svalutazione dello yuan. Beh sì, come hai detto tu, giustamente hai parlato di un lieve rimbalzo, anche perché per esempio Londra ha chiuso praticamente sulla parità, Parigi ha fatto più 1,2%, Francoforte più 0,8%, la migliore delle principali piazze del vecchio continente è stata Milano più 1,5%, ma ricordiamo che i mercati arrivavano da due sedute di pesanti realizzi. Oggi è arrivata un'altra svalutazione della banca centrale cinese, ma è anche vero che lo stesso istituto centrale ha precisato come il percorso di aggiustamento della valuta locale nei confronti del dollaro sia ormai terminato. Queste sono sicuramente parole che hanno diciamo, confortato gli operatori. Ecco, male Saipem, che nei giorni scorsi era andata bene dopo indiscrezioni su commesse in Kuwait, oggi la notizia di un nuovo procedimento penale per corruzione in Brasile. Sì, diciamo che Saipem è tornata ai minimi dalla fine di gennaio, quindi su livelli molto bassi, un'azienda che negli ultimi trimestri è stata molto penalizzata in borsa, c'erano state indiscrezioni su una commessa in Kuwait, il titolo proprio nelle ultime due sedute aveva tenuto meglio rispetto al mercato, poi questa notizia di un nuovo procedimento penale per corruzione in una transazione con Petrobras in Brasile oggi ha penalizzato il titolo, peggiore di Piazza Affari, meno 1%. E così Saipem, poi la migliore Buzzi, più 5,07, fermento già nelle scorse settimane per il titolo, ora si tocca i massimi dal 2008. Eh sì, fermento sicuramente con la cessione di Italcementi che è avvenuta nelle scorse settimane, Buzzi nelle ultime due sedute invece era stata molto penalizzata, oggi con un balzo molto importante, più 5%, ha toccato appunto i massimi degli ultimi 7 anni, a spingerla anche un report da parte di Exxon, che è il broker della francese BNP Paribas, che ha diciamo consigliato di acquistare il titolo anche a valle dei conti del semestre, che hanno visto dei ricavi in crescita del 5% per Buzzi. Quindi tra i migliori Buzzi, a seguire IOX più 4,45, che sale quindi sostenuta dalla buona semestrale di Zalando, che opera nello stesso settore. Sì, fanno entrambi diciamo e-commerce di beni di lusso. IOX può essere paragonata alle aziende del lusso, seppur con caratteristiche diverse. Zalando oggi a Francoforte ha messo a segno un balzo molto importante in borsa dopo che nel primo semestre ha visto i ricavi crescere del 31,5% e l'EBIT che si è portato a 59 milioni. Numeri importanti, Zalando ha poi anche confermato sì, i target su tutto l'anno e quindi ne ha approfittato anche IOX. Ecco, l'abbiamo visto negli ultimi giorni come erano andati male i titoli del lusso, invece come sono andate in rimbalzo le borse, anche sono tornati in terreno positivo questi titoli, in particolare Luxottica. Sì, Luxottica ha fatto segnare più 4,2%, dobbiamo un po' però scorrere l'istituto per trovare Ferragamo che fa più 0,7%, possiamo però vedere a Parigi come Louis Vuitton, che è il numero uno europeo del lusso, ha fatto un buon più 3%, quindi proprio un rimbalzo oggi dei titoli del lusso che nelle ultime due sedute erano state penalizzate dalle preoccupazioni sulle vendite in Cina. Certo, certo. Passiamo ad Exor, che guadagna dopo la salita al 43% del capitale di Economist. E ora ci si aspetta qualche cessione? Sì, diciamo che gli analisti ipotizzano qualche dismissione dopo le ultime grandi acquisizioni di Exor, in particolare quella del riassicuratore americano Partner Re. Opinione degli analisti che un piccolo aggiustamento nel portafoglio debba avvenire, poi c'è anche attesa per quello che sarà lo scopolo della Ferrari, che arriverà poi a essere controllata una parte direttamente da Exor, sicuramente un titolo sotto i riflettori. Grazie a Ceo Condina, collega di Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso il traffico e poi privatizzazioni ed energia. Focus Economia. Focus Economia, ultima parte della trasmissione. Partiamo con le privatizzazioni. È con noi Davide Colombo, collega del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio, Davide. Buon pomeriggio a voi. Davide, allora, quest'anno il governo mira solo quest'anno a recuperare, se non sbaglio, 7 miliardi ai fini della riduzione del rapporto debito-PIL proprio dalle privatizzazioni, ma questo è un cammino che il governo ha intrapreso da qui al 2018. Quanto vale? Ma diciamo che è un primo passo significativo se si realizza con questi 4 miliardi previsti di incasso con la privatizzazione del 40% dei posti, si dovrebbe arrivare appunto a questo target che dicevi tu di 7 miliardi, un quarto diciamo dell'obiettivo che il governo si è dato di 29 miliardi tra il 2015 e il 2018. Questi 29 miliardi di incassi da privatizzazioni naturalmente hanno un peso relativo, ma hanno un peso anche significativo, segnaletico, soprattutto sulla volontà di appunto proseguire sulla strada della riduzione del debito. Teniamo conto che nello stesso periodo, tra il 15 e il 18, il debito pubblico dovrebbe ridursi dal 132,5% di quest'anno al 123,4% del 2018. Sono 9 punti di PIL. Diciamo che due di questi 9 punti dovrebbero farli le privatizzazioni. Naturalmente il resto deve farlo, certo, un ridisegno del bilancio dello Stato che è in corso con le azioni di spending review, e il resto deve farlo la crescita economica, che deve arrivare, perché se non arriva la crescita economica, purtroppo questo stock di debito, nonostante i buoni dati di oggi di Banca Italia, certo, continua a pesare moltissimo. Ecco Davide, spieghiamo perché parliamo di privatizzazioni. Prendiamo spunto da questo famoso 40% di Poste atteso sui mercati, se non sbaglio, per la fine di ottobre. Parliamo di privatizzazioni perché, comunque lo ricordavi tu, sono risorse finalizzate anche e soprattutto a tenere in equilibrio i conti dello Stato, anche negli impegni presi a livello europeo. Senza entrare nello specifico, è una cosa realizzabile questa presenza a Piazza Affari, comunque sui mercati, del 40% delle Poste? È una cosa che può allettare i fondi sovrani e gli investitori internazionali? Nazionale. Ma sull'IPO di Poste c'è una, diciamo, l'impostazione è abbastanza articolata, c'è anche una forte componente retail con una possibilità di sottoscrivere un lotto minimo di 1000 euro con il solito schema di 10 azioni gratis ogni 100 azioni detenute per almeno 12 mesi, per cui, certo, evidentemente diciamo le esperienze passate di privatizzazioni, ricordiamo quote di Enel, di Eni e di Finmeccanica, ecco, ci saranno anche in questo caso, ci saranno agevolazioni particolari per i dipendenti di Poste, per cui diciamo che dovrebbe essere una operazione classica come quelle che, sì, abbiamo visto in passato, e che appunto rappresenta un tassello in più in questo percorso, che evidentemente è un percorso che non ha tantissimo margine ancora davanti. L'anno prossimo visto che questa, con questa privatizzazione appunto si chiude l'anno di privatizzazioni, si fanno questi 7 miliardi, ricordiamo quali sono gli altri, sì, sono infatti i 2 miliardi che sono stati incassati con la cessione del 5,70% di Enel e poi il miliardo dei famosi Tremonti, dei famosi, chiedo scusa, Monti Bonds, che furono anticipati alla cassa alla Monte dei Paschi di Siena, che è stato restituito ai primi di luglio. Quali potrebbero essere le prossime mosse? In cantiere c'è la quota Eni del 4,3% sicuramente, sì, e ci sono le ferrovie. Sono due grossi asset. Il primo è una grossa incognita, anche perché con gli attuali corsi del greggio naturalmente il valore di queste azioni... Ecco, infatti proprio qui volevo arrivare. È possibile che magari il governo freni nello specifico su Eni, visto il momento negativo proprio per le quotazioni del petrolio? Finora sui vari rumors di mercato che si sono inseguiti durante l'anno su questa quota di Eni, il Tesoro ha avuto un atteggiamento abbastanza cauto, però non ha mai smentito la volontà di fare un intervento anche su questa quota. Stiamo dentro il 2016, certo, a questo punto, certo, e si tratta di vedere che tipo di valorizzazione si può immaginare con questi corsi del greggio. Ferrovie dello Stato è controllata al 100% dal Tesoro, altra grande incognita, non si sa bene che tipo di operazione si può fare. Poi ci sono piccoli... Sì. Piccole operazioni, ma insomma significative, che sono STM, che potrebbe essere ceduta alla Cassa Depositi e Prestiti, questa è una delle ipotesi in via totalitaria, e poi la società Enav. Appunto, diciamo, questo è la carne al fuoco, diciamo, del 2016. Bisogna capire che condizioni di mercato ci saranno, bisogna capire nel frattempo che tipo di equilibri di bilancio si determineranno, e anche su questa base il Tesoro farà le sue scelte. Certo, in generale, Davide, un tuo giudizio, si è in ritardo o in orario in questo percorso di privatizzazione? Ma quest'anno l'obiettivo è centrato, se tutto va bene, con l'IPO di Poste. L'IPO di Poste è stata abbastanza, come dire, un'operazione molto lunga, c'è stato un cambio al vertice della società, era partita col vecchio governo, e quindi diciamo che probabilmente su Poste si poteva anche fare un po' più, stare un po' più stretti. Le quotazioni delle altre aziende gemelle, diciamo, di Poste, soprattutto quella tedesca e quella inglese, hanno dato dei risultati non sempre brillanti, quindi non è una operazione, ecco, semplice, insomma. Le privatizzazioni storicamente negli ultimi 20 anni in Italia non è che siano andate benissimo, anche alla luce poi di come alcune aziende privatizzate poi sono state lasciate. Certo, questo è, diciamo, purtroppo se ti riferisci alla storia industriale del nostro paese in particolare. È questo, no, ma anche da alcuni messaggi al 349-238-6666 si ricorda Telecom, si ricorda, certo, Pirelli. Sì, Telecom purtroppo è, come dire, fa parte oramai della storia del nostro paese, è stata una operazione gestita in un certo modo con il famoso nocciolino di azionisti di controllo, e, certo, e poi abbiamo visto una teoria, un carosello di cambi di proprietà e una gestione che ha dato dei risultati abbastanza alternanti. Qui si mette sul mercato il 40% di Poste Italiane. La D Francesco Caio ha fatto appunto una operazione di preparazione dell'IPO da quando ha questo mandato abbastanza stretta. Non è neanche escluso che ci sia in futuro un'altra tranche di Poste, bisogna vedere come va questa operazione, certo, insomma. Bene, bene, grazie a Davide Colombo, collega del Sole 24 Ore. Abbiamo parlato in questa fase di privatizzazioni. Ora l'ultimo tema di Focus Economia di oggi, parliamo nello specifico di energia. Parliamo di energia con il nostro titolo dell'ultimo tema. Il TAP avanza nell'area pugliese di Melendugno, stanno partendo gli espropri dei terreni dove dovrebbe approdare il gasdotto TAP dopo un percorso di 870 km che parte dall'Azerbaigian. Ne parliamo con il collega del Sole 24 Ore, Domenico Palmiotti. Buon pomeriggio, Domenico. Buon pomeriggio, Vincenzo, buon pomeriggio agli ascoltatori. Allora Domenico, lo scrivi anche tu oggi sul Sole 24 Ore, praticamente tutto pronto, sono già scattati gli espropri per costruire in generale l'infrastruttura che a Melendugno accoglierà la parte terminale di questo gasdotto che, ricordiamo, arriverà dall'Albania, ma precedentemente parte dall'Azerbaigian, 870 chilometri, Grecia, Albania, Mar Adriatico, per un prodotto che dovrebbe arrivare, iniziare ad arrivare nel Salento nel 2020, scrivi di 10 miliardi di metri cubi l'anno, eventualmente raddoppiabile. Tutto così semplice o cosa c'è davanti ancora? Beh, diciamo che i cantieri di TAP scaldano i motori perché, come dicevi tu, la società ha avviato le procedure per l'esproprio dei suoli interessati all'attraversamento dell'opera. L'opera è tutta autorizzata, l'ultimo passaggio è stato l'autorizzazione unica del Ministero dello Sviluppo Economico, però il cammino non è proprio in discesa perché rimane fortissima l'opposizione del Comune di Melendugno, dei movimenti ambientalisti, della stessa certo. Regione Puglia, che hanno impugnato l'autorizzazione unica davanti al TAR del Lazio. Il TAR del Lazio si esprimerà col giudizio di merito a gennaio prossimo, quindi diciamo che c'è ancora un ostacolo da superare, perché non è che in Puglia il fatto che l'opera sia stata autorizzata e una serie di procedure siano scattate, non è che questo ha fatto, come dire, far venir meno le opposizioni certo. Rimangono e sono molto forti, però il TAP è ritenuto un progetto strategico dal governo. Recentemente alla direzione nazionale del PD, che ha parlato di Sud, Renzi l'ha appunto citata, e quindi il governo e la società spingono perché questo progetto vada avanti. Ci sono anche infatti degli impegni internazionali molto precisi che l'Italia ha sottoscritto, e quindi sembra che non ci siano ostacoli all'infuori di quello che potrà succedere sul piano del contenzioso legale che già ha visto parecchi duelli fra regione, ambientalisti e TAP, però l'opera è andata avanti sino adesso, anche perché la valutazione di impatto ambientale rilasciata quasi un anno fa, a fine agosto 2014, dal Ministero dell'Ambiente ha giudicato sì. San Foca e Melendugno come la soluzione meno impattante. Nell'insieme di localizzazioni proposte, questa è stata ritenuta la migliore. Ecco, e bisogna Domenico. Anche dire che la Regione Puglia ha cercato di proporre soluzioni alternative, però al di là delle enunciazioni una vera proposta alternativa sul tavolo non è mai stata non messa. C'è, certo. Ricordavi giustamente il Presidente del Consiglio Renzi una settimana fa in direzione ha fatto l'esempio tra Ibiza, che ha un metanodotto simile al TAP e non ha avuto problemi ambientali anche sulla recettività turistica. Ha detto in Puglia sarà la stessa cosa, vi sarà un impatto molto minimo. Quanto è importante per la Regione Puglia quest'opera? Un'opera, ricordiamo, in generale da 40 miliardi alla Regione, che adesso sta riprendendo anche economicamente dopo il riavvio positivo dell'Ilva, ne abbiamo parlato insieme Domenico. Quanto vale il TAP per la Puglia? La ricaduta in termini di lavoro per le imprese pugliesi è da stimare, però diciamo che c'è una buona predisposizione, una buona apertura, perché appena qualche settimana fa 4 delle 6 imprese che si sono prequalificate per le 2 gare che TAP lancerà a fine anno per la parte italiana del gasdotto, appunto 4 di queste 6 imprese hanno incontrato circa 150 imprese pugliesi certo. potenzialmente interessate ad entrare nel meccanismo degli appalti e delle subforniture, e si sono avviate delle prime positive relazioni. E come oggi dichiarava al Sole 24 Ore il vicepresidente vicario di Confindustria Puglia Enzo Cesario, questo è un progetto strategico, ma è anche un progetto Bene. Che deve andare avanti, perché dimostra che la Puglia è in grado di attrarre e far andare avanti nei tempi giusti Bene, investimenti strategici e di valenza internazionale importanti. Grazie a Domenico grazie Palmiotti a del Sole 24 Ore. Ricordo brevemente domani la pagina dedicata al lavoro sul Sole 24 Ore, anche sul fronte pensioni, nell'iniziativa Estate con il tuo amico Sole. Per oggi è tutto, un ringraziamento a Mauro Del Corno per l'assistenza al programma, ad Alessandro Chiappini e Valeria Bernardi in regia, un saluto da Vincenzo Miglietta.